Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. C'è un principio di magia fra gli ostacoli del cuore. Mi si attacca volentieri fra una sera che non muore. È una notte da scartare come un pacco. Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi vi do il buongiorno con i risultati di una ricerca che sottolineano quanto i minuti che dedichiamo quotidianamente alla salute di denti e gengive siano preziosi. L'igiene orale, infatti, è correlata con la salute della bocca, che a sua volta è un indicatore prezioso della salute generale. Come a dire che se i nostri denti o le nostre gengive sono ammalate, la nostra salute e in modo particolare la salute del nostro cuore è in pericolo. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Claudio Borghi, ordinario di medicina interna all'Università di Bologna. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. La ricerca dimostra che se abbiamo a cuore la nostra salute dobbiamo curare anche in modo particolare la salute di denti e gengive. Perché, professor Borghi, ci vuole spiegare questa relazione? Questo è un problema che esiste da molto tempo. La salute di denti e gengive corrisponde fondamentalmente all'accensione o allo spegnimento di meccanismi di tipo pro-infiammatorio. E per molto tempo si è immaginato una sorta di correlazione tra la salute di denti e gengive, l'infiammazione della parete delle arterie e quindi il rischio di sviluppo di malattie cardiovascolari. Anche la nostra università è attualmente impegnata nello stesso ambito. Questo studio non fa altro che ribadire fondamentalmente che questo aspetto pro-infiammatorio sembra agire in una fase addirittura precedente, quindi nella fase di sviluppo dei fattori di rischio cardiovascolare. Quindi aggiunge un altro tassello a un'interpretazione meccanica della possibilità che un fenomeno apparentemente così lontano come la salute dei denti e delle gengive possa avere invece una ricaduta generale sulla nostra salute cardiovascolare. Professor Borghi, a proposito della relazione stretta tra salute della bocca e salute del cuore, quindi salute generale, vorrei citare uno studio pubblicato su Cardiovascular Research che suggerisce che le persone che soffrono di parodontite, che è l'infiammazione cronica delle gengive, hanno un rischio molto più alto di sviluppare ipertensione arteriosa, che sappiamo è un fattore di rischio importante per la salute del cuore. Sì, fondamentalmente il problema fondamentale era che in passato nessuno aveva mai considerato la possibilità che ci fosse una modificazione significativa dei valori di pressione fino dei pazienti che presentano alterazioni infiammatorie dei denti e delle gengive. Questa ricerca invece tende a sottolineare come proprio l'aumento della pressione possa essere uno dei momenti centrali. D'altro canto, noi sappiamo molto bene come l'infiammazione cronica, quale quella che si potrebbe sviluppare in relazione ai denti e alle gengive, possa aumentare la rigidità delle nostre arterie, ridurre la loro capacità di svolgere una funzione adeguata dal punto di vista del controllo circolatorio, e come sempre l'effetto immediato di qualsiasi perturbazione della salute delle nostre arterie è un aumento dei valori di pressione arteriosa. Quindi certamente un fenomeno del quale tenere grande conto. Ecco, quindi curiamo l'igiene della bocca, che è garanzia di salute non solo per il nostro cavo orale ma anche per la salute generale, in modo particolare quella del cuore, e controlliamo anche i valori della nostra pressione. Ecco, professor Borghi, arriviamo a un tema a lei caro. Controlliamo i valori della nostra pressione a casa, dal medico in farmacia. L'importante è rompere gli indugi, misurarle anche se siamo in pieno benessere. Mi aiuti lei, professor Borghi, a essere convincente, smascherando magari alcuni luoghi comuni che portano tante persone a credere che misurarsi la pressione sia una cosa da vecchi, un controllo che devono effettuare solo le persone anziane. No, nella maniera più assoluta no, e questo è un vecchio retaggio del passato. Nel passato lei sa che si diceva che i problemi cardiovascolari dovevano essere presi in considerazione soltanto dai 50 anni in poi, quindi che prima di 50 anni noi godessimo di una sorta di impunità generale che ci permetteva di fare qualsiasi cosa senza avere alcuna ricaduta dal punto di vista cardiovascolare. Oggi siamo andati molto a ritroso nell'età, e non solo il problema della pressione è già presente negli adolescenti, ma è già presente anche nei bambini in età corrispondente a quella della scuola elementare, semplicemente perché abbiamo raffinato le modalità di misurazione. pressione, e le bambine assumono un significato particolare perché chi ha valori di pressione un po' più alto da bambino tende poi a sviluppare un'ipertensione invece di maggiore rilevanza nell'adulto. Quindi sicuramente deve essere misurata a tutte le età, incominciando anche dai bambini, perché nella caratterizzazione generale del nostro futuro non ci sono soltanto le nostre condizioni di salute generale, ma ci sono soprattutto le condizioni di salute delle nostre arterie, e le modificazioni della pressione a qualsiasi età si verificano sono una spia estremamente precoce se c'è qualcosa che non va. Quali sono i valori della pressione ottimali, professore? Sostanzialmente esistono due scuole di pensiero. Ecco, è per questo che non sapevo come formularle la domanda. Perché... Ma lei è nello stesso dubbio in cui sono la maggior parte delle persone che leggono i documenti di consenso. Esistono due scuole di pensiero che stanno sui due lati sostanziali dell'oceano. Sul versante europeo si considerano normali i valori di pressione arteriosa fino a 140 di massima e a 90 di minima. Ma devo dire che questa è l'idea dominante, imperante anche nel resto del mondo. Poi esiste una scuola di pensiero soprattutto nordamericana e in parte canadese che invece sostiene che la pressione normale debba collocarsi al di sotto di 130 mm di mercurio per la massima e di 80 mm di mercurio per la minima. Credo che se noi guardiamo con attenzione alle evidenze disponibili abbiamo una certezza assoluta che forse il limite di 140 e 90 sia quello più reale e anche quello più praticabile. Probabilmente una pressione al di sotto di 130 e 80 è qualcosa di esageratamente restrittivo, che non corrisponde necessariamente a un miglioramento o a una prevenzione più elevata, più rilevante dal punto di vista cardiovascolare. Io tenderei, da buon europeista, a stare legato ai limiti che definisce l'Europa, al di sotto di 140-90. 140-90, ma professor Borghi, se i valori della mia pressione sono lievemente alterati, posso dare la colpa al freddo? Sicuramente sì, è una cosa che io in questi giorni sto vedendo con grandissima frequenza. Ci sono molti studi che, a partire da un'osservazione generale, hanno cercato di indagare questo aspetto. La nostra pressione ha un andamento stagionale, il che non vuol dire che la pressione abbia un andamento stagionale, vuol dire che le diversità di temperatura che caratterizzano le diverse stagioni dell'anno possono influenzare i valori di pressione arteriosa. In particolare il freddo determina un restringimento del calibro delle nostre arterie, quelle che noi chiamiamo vasocostrizione, e ogni volta che c'è un restringimento del calibro arterioso la pressione tende ad aumentare, perché come lei può facilmente comprendere deve superare una resistenza maggiore, certo, per apportare la stessa quantità di sangue alla periferia del nostro corpo. Quindi fatalmente, per sentirci caldi, per fare funzionare bene le estremità dei nostri arti, dobbiamo aumentare lievemente la pressione per superare questa maggiore resistenza. Quindi normalmente la mia pressione è nei valori 140-90, andando dal medico in farmacia la trovo lievemente più altina, potrebbe essere colpa delle temperature. Esattamente, posso dare una parte della responsabilità alla temperatura esterna. Certo. Che stress, avrei voglia di uscire da questa vita allucinante. Professor Borghi, lo stress può far aumentare la pressione? Certamente sì. Questo è un altro aspetto importante. Anche in questo caso io la ringrazio molto di tutte queste domande, che sono estremamente importanti per chiarire quel sottile confine che c'è tra la verità e le cosiddette fake news. Sicuramente lo stress può aumentare la pressione. Ciò che non è vero, e che è stato sostenuto nel passato, ma quando non c'erano ovviamente evidenze a supporto, è che lo stress sia la causa dell'ipertensione. Lo stress non ha un elemento, una capacità causativa sullo sviluppo della malattia ipertensiva, ma invece una sistematica capacità di influenzare i valori di pressione arteriosa. Per cui se noi ci troviamo in una situazione stressante acuta o in una situazione stressante prolungata, i nostri valori pressori sono più alti. La differenza è il pericolo che questo genera, nel senso che un aumento acuto della pressione per una situazione stressante immediata, una frenata brusca in auto, sì, certo, è un fenomeno sostanzialmente fine a se stesso. È un fenomeno che serve per apportare istantaneamente più sangue ai nostri muscoli, perché dovendo noi affrontare, al cervello naturalmente, una situazione di potenziale pericolo, siamo più pronti a reagire. Se questo invece si mantiene nel tempo, perché la spina irritativa che genera lo stress si prolunga nel tempo, ecco che questo aumento della pressione prolungato può avere qualche effetto sfavorevole, però certamente sui valori di pressione, non sulle cause della malattia ipertensiva. Professor Borghi, vede che il nostro spazzolino ci ha portato lontano. Certo. Abbiamo fatto un viaggio dall'igiene della bocca ai fattori di rischio predisponenti dell'ipertensione per chiarire tanti dubbi. Io la ringrazio davvero per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata. Ed è stato un grandissimo piacere anche per me e buona giornata anche a tutti voi. Professor Borghi, grazie per essere stato con noi. Noi invece ci sentiamo come sempre tra poco a mezzogiorno per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca, ma fatevi sentire anche voi, mandateci un WhatsApp al 349 238 6666. A mezzogiorno allora, buona giornata da Nicoletta.